Tornata a casa si dedicò all'insegnamento delle sorelle, che non avevano goduto del vantaggio offerto a lei. In data del 21 luglio 1832, ecco come descrive la vita che conduce alla canonica. Il resoconto di una giornata vale per tutte. Di mattina, dalle 9 alle 12 e mezza, insegno alle mie sorelle e disegno. Poi passeggiamo fino all'ora del pranzo. Dopo pranzo, cucio fino all'ora del tè. Dopo il tè, o scrivo, o leggo, o ricamo, o disegno a piacer mio. E così trascorre la vita in una piacevole, anche se monotono, fluire del tempo. Da quando sono tornata a casa ho preso il tè fuori solamente una volta o due. Questo pomeriggio aspettiamo visite e la prossima settimana riceveremo per il tè tutte le insegnanti della scuola domenicale. Fu verso quest'epoca che Mr. Bronte diede ai figli un insegnante di disegno che si dimostrò uomo di considerevole talento ma di scarsissimi principi. Gli alunni non raggiunsero mai un livello discreto, anche se misero il massimo impegno nel tentativo, evidentemente spinti a impadronirsi di un mezzo che avrebbe loro permesso di dare forma tangibile alle visioni della loro immaginazione. Charlotte mi ha detto che in quel periodo disegnare e passeggiare con le sorelle costituivano per lei due grandi piaceri, i veri momenti di distensione della sua giornata. Le tre ragazze erano solite salire lungo il pendio della brughiera di un nero porporino, la cui vasta superficie era interrotta da cave di pietra sparse qua e là, e quando avevano tempo e resistenza sufficienti, giungevano fino a una lontana cascata, là dove il fiumiciattolo cadeva di roccia in roccia fino a toccare il fondo. Raramente scendevano verso il villaggio, temevano, per timidezza, l'incontro con persone sconosciute e si facevano scrupolo di entrare senza essere invitate, sia pure nelle più povere case. Erano insegnanti fisse nella scuola domenicale, attività che Charlotte continuò fedelmente anche quando rimase sola. Ma non affrontavano mai spontaneamente i loro simili, preferivano la solitudine e la libertà della brughiera. Nel settembre di quello stesso anno, Charlotte andò ospite per la prima volta dalla sua amica E. Ciò la condusse nelle vicinanze di Rowhead e la mise in contatto con molte delle sue compagne di un tempo. Dopo questa visita sembra che lei e E si siano messe d'accordo per corrispondere in francese, per aver modo così di far progressi in quella lingua. Ma non era possibile che migliorassero molto, visto che potevano unicamente arricchire il loro corredo di parole facendo uso del vocabolario. Non vi era nessuno in grado di spiegar loro che la traduzione alla lettera delle frasi idiomatiche inglesi non poteva dirsi un componimento in lingua straniera. Ma lo sforzo era encomiabile e di per sé dimostra quanto fossero volonterose nell'incrementare l'educazione iniziata sotto la guida di Miss Wooler. Passò invece parecchio tempo prima che le amiche potessero incontrarsi nuovamente. Decisero di scriversi una volta al mese nell'intervallo. Nelle lettere da Haworth non vi erano fatti di cronaca da registrare. La giornata di Charlotte, tutta presa dall'insegnamento e dal disbrigo delle faccende domestiche, non offriva granché da raccontare, perciò ella fu naturalmente indotta a scrivere su quanto leggeva. In casa vi erano molti libri di varia collocazione e, secondo l'aspetto, venivano sistemati in luoghi diversi. Quelli ben rilegati erano posti nello studio di Mr. Bronte, inviolabile santuario. L'acquisto dei libri era un lusso indispensabile per lui e spesso si trovava a dover scegliere se far rilegare un volume usato o comprarne uno nuovo. Quello usato era stato famelicamente letto da tutti i membri della famiglia e, passando di mano in mano, si era sciupato e ormai mal ridotto. Lo scaffale della camera da letto era l'unico luogo adatto per esporlo. Altri libri si vedevano dovunque qua e là per la casa. Erano testi di base, di genere ben definito. I romanzi di Sir Walter Scott e le poesie di Wordsworth e Southey erano messi tra gli scritti di letteratura amena. Altri libri meritano di essere indicati a parte per il loro contenuto di carattere ardente, sfrenato, occasionalmente fanatico. Venivano dalla parte Bronwell della famiglia, dai seguaci cornovagliesi di quel John Wesley tenuto in odore di santità. E che qui indico, visto che dello stesso tipo sono i lavori ai quali poteva accedere Caroline Helston in Shirley. Alcune venerabili riviste per signore che un tempo avevano viaggiato per mare con la loro proprietaria e avevano attraversato una burrasca, probabilmente parte di quanto restava dei beni di Mrs. Bronte coinvolti nel naufragio lungo le coste della Cornovaglia. Le cui pagine erano macchiate dall'acqua salmastra. Alcune pazze riviste metodiste piene di storie di miracoli e di apparizioni, di avvertimenti preternaturali, sogni profetici e frenetico fanatismo. Le altrettanto pazze lettere di Mrs. Elizabeth Rowe, Dai morti ai vivi. Mister Bronte incoraggiava nelle figliole il gusto per la lettura. Da parte sua, Miss Branwell lo manteneva nei giusti limiti, con la varietà delle incombenze domestiche che dava alle nipoti, esigendo non solo che le sbrigassero, ma anche vi aggiungessero una piena efficienza. Buona parte della giornata era così occupata. Avevano il permesso di prendere libri a prestito dalla biblioteca circolante di Keighley e così quante liete passeggiate di 4 lunghe miglia devono aver fatto per tornarsene a casa in possesso di nuovi volumi tra le cui pagine sbirciavano camminando. Non che le pubblicazioni fossero quel che generalmente si potrebbe dire recenti. All'inizio del 1833 sembra che le due amiche abbiano avuto per le mani quasi simultaneamente Kenilworth e Charlotte ne scrive quanto segue. Son lieta che Kenilworth ti piaccia. Certo somiglia più a una narrazione romantica che a un romanzo vero e proprio. Secondo me è uno dei lavori più interessanti di quanto siano mai usciti dalla penna del grande Sir Walter. È fuori discussione che Varney sia la personificazione della più consumata bassezza e nel tracciare lo schizzo della sua indole cupa e profondamente astuta, Sir Walter dimostra una grande conoscenza della natura umana, come pure una sorprendente abilità nel dar corpo a quanto egli stesso percepisce, tanto da parteciparne la conoscenza agli altri. Per quanto banali possano sembrare, le osservazioni qui sopra riferite sono degne di nota da alcuni punti di vista. Invece di discutere l'intreccio, per prima cosa Charlotte si ferma sul carattere di Varney, il protagonista. Poi, pur non conoscendo nulla del mondo a causa della giovane età e dell'isolamento in cui vive, è già così abituata a udir descrivere la natura umana con sfiducia da cogliere senza sorpresa la descrizione di un carattere di intensa e astuta scelleratezza. Quanto si riscontra tutta prima di formale, di impersonale, nel suo modo di esprimersi scrivendo a E, andò diminuendo a mano che il loro rapporto si faceva più intimo e venivano a conoscere la casa e l'ambiente familiare l'una dell'altra, cosicché presero interesse ai particolari minuti circa le persone e i luoghi. Nell'estate del 1833 scrisse all'amica invitandola a trascorrere alcuni giorni alla canonica. La zia pensava, leggiamo, che sarebbe stato preferibile differire l'invito fino alla metà dell'estate prossima, visto che l'inverno e anche parte della primavera sono notevolmente freddi e squallidi nelle nostre montagne. La prima impressione che le sorelle minori dell'amica fecero all'ospite è la seguente. Emily era una ragazza alta, dalle lunghe braccia, più sviluppata della sorella maggiore e dai modi molto riservati. Insisto sul termine riservatezza distinguendolo dalla timidezza, perché immagino che mentre la timidezza piacerebbe attirare ma non sa come farlo, il riserbo è indifferenza di piacere o no agli altri. Anne era come la sorella maggiore, timida. Emily, riservata. Branwell era un ragazzo piuttosto bello, aveva capelli fulvi, per impiegare un termine usato da Miss Bronte, a indicare un colore alquanto sgradevole. Tutti erano molto intelligenti, originali e totalmente diversi da qualsiasi persona o famiglia che E avesse mai visto prima di allora. Nell'insieme fu una visita felicemente riuscita, secondo quanto ne dissero ambe le parti interessate. Scrivendo a E, subito dopo il ritorno di questa a casa, Charlotte dice: se ti dicessi l'impressione che hai fatto a tutti qui, mi accuseresti di adulazione. Papà e la zia ti propongono continuamente come l'esempio su cui dovrei modellare le mie azioni e il mio comportamento. Emily e Anne dicono che non avevano mai incontrato una persona che piacesse loro tanto quanto te. E Tabby, che hai addirittura affascinata, fa di continuo una quantità di apprezzamenti così esagerati che non mi curo di ripeterli. Si è fatto così scuro che, nonostante la singolare facoltà di vederci di notte che le signorine di Rowhead erano solite attribuirmi, non posso continuare a scarabocchiare. Per un ospite della canonica era una grande cosa meritare l'approvazione di Tabby. Avevo un'acuta intuizione dei caratteri e non tutte le persone che incontrava le piacevano. Haworth è costruito con un totale disprezzo di qualsiasi requisito igienico. Il vasto cimitero si trova in posizione elevata rispetto alle case e dà i brividi pensare a come l'acqua stessa che sgorga dalle fontane sottostanti debba essere inquinata. Quell'inverno del 1833-34 fu particolarmente piovoso, con conseguente tasso di grande umidità, e il numero dei morti nel villaggio fu insolitamente elevato. Per la famiglia della canonica fu una squallida stagione. Le abituali passeggiate erano impedite dal terreno inzuppato della brughiera, il frequente passaggio dei cortei funebri, accompagnati dai rintocchi delle campane, che suonavano a morto, suscitando nell'aria pesante funeree onde, e quando tacevano, il tic-tac del muratore che tagliava le lapidi di un capanno, in un capanno vicino. Nella maggior parte delle persone, vivendo praticamente in un cimitero come era il loro caso, poiché la canonica è circondata dalle tombe sui tre lati, e convivendo quotidianamente con lo spettacolo e i suoni che accompagnavano le esequie, la familiarità stessa avrebbe generato indifferenza. Ma le cose andarono diversamente per Charlotte Bronte. Una delle sue amiche dice: la vidi impallidire e quasi venir meno quando nella chiesa di Hartshead qualcuno notò incidentalmente che stavamo camminando su delle tombe. Verso l'inizio del 1834 E si recò a Londra per la prima volta. Il pensiero del viaggio dell'amica sembra abbia stranamente agitato Charlotte. In base ad alcuni articoli letti su raccolte quali Saggisti britannici, Il passeggero, Lo specchio e L'ozio, trovate tra i classici inglesi negli scaffali della canonica, ella evidentemente pensava che un completo cambiamento dell'indole in peggio fosse l'inevitabile effetto di una visita alla grande metropoli. Scopre poi con delizia che E è rimasta E. E visto che la fiducia nella saldezza del carattere dell'amica è salva, la sua immaginazione è profondamente commossa al pensiero di quali grandi meraviglie si possano vedere in quella vasta e famosa città. Haworth, 20 febbraio 1834. La tua lettera mi ha procurato un grande piacere, profondamente sentito e non poco sbalordimento. Mary mi aveva informata della tua partenza per Londra e non mi ero avventurata ad aspettarmi nessun contatto con te mentre eri circondata dagli splendori e dalle novità della grande città definita la metropoli commerciale dell'Europa. Pensando alla natura umana, ritenevo che una giovane cresciuta in campagna, trovandosi per la prima volta in una situazione fatta apposta per eccitare la curiosità e per distrarre l'attenzione, dovesse dimenticare le persone familiari e lontane, abbandonandosi interamente al fascino delle scene che le si presentavano. La tua gentile, interessante, assai benvenuta epistola mi ha dimostrato quanto poco invece mi ero caritatevolmente ingannata in proposito. Mi ha veramente divertita il tono noncurante che assumi scrivendo di Londra e delle sue meraviglie. Non hai provato rispetto reverenziale mentre contemplavi la cattedrale di St. Paul e l'abbazia di Westminster? Non hai provato un sentimento di intenso, ardente interesse vedendo il palazzo di St. James dove hanno tenuto corte tanti re d'Inghilterra e scorgendo i loro ritratti alle pareti? Non devi temere di dimostrarti quale sei una campagnola. La magnificenza di Londra ha strappato esclamazioni di stupore a uomini che avevano viaggiato in lungo e in largo, fatto l'esperienza del mondo, delle sue bellezze, delle sue meraviglie. Hai già avuto occasione di porre gli occhi su qualcuno dei grandi personaggi che sono trattenuti a Londra dalle sedute del Parlamento? Il duca di Wellington, per esempio, Sir Robert Peel, il conte Grey, Mr. Stanley, Mr. O'Connell. Se fossi in te non mi preoccuperei granché di leggere mentre ti trovi in città. Adopera ora gli occhi per osservare e lascia da parte almeno per un po' le descrizioni che ci forniscono gli autori. In un postscriptum la lettera aggiunge: avresti la gentilezza di informarmi sul numero dei suonatori della banda militare del re? E più o meno nello stesso spirito scrive Charlotte un'altra volta, 19 giugno. Mia carissima Ho ormai il diritto di chiamarti veramente così. Sei ritornato o sei sul punto di ritornare da Londra, dalla grande metropoli che rappresenta per me una apocrifa Babilonia o una Ninive o un'altra Roma antica? Ti stai ritirando dal mondo, come lo si definisce, e ne riporti, se le tue lettere mi mettono in grado di formulare un giudizio corretto, un cuore così schietto, così naturale, così sincero come quello che vi recasti. Io sono lenta, molto lenta nel prestar fede alle proteste altrui. So quali sono i miei sentimenti, posso leggere in me, ma le menti di tutti gli altri esseri umani, uomo o donna che siano, sono per me un volume sigillato, un tracciato geroglifico che non posso decifrare facilmente. Tuttavia il tempo, uno studio accurato, una lunga consuetudine sormontano il maggior numero delle difficoltà e nel tuo caso penso che siano felicemente riusciti a mettere in luce e a costruire quel nascosto linguaggio, le cui svolte, giravolte, inconsistenze e oscurità così spesso danno scacco alle ricerche di un onesto osservatore della natura umana. Ti sono sinceramente grata per l'interesse che hai concesso a una persona tanto oscura quale sono, e spero che questo piacere non sia esclusivamente egoistico. Penso che in parte derivi dalla presa di coscienza che il carattere della mia amica è di una qualità più alta, più salda di quella di un tempo che un tempo le attribuivo. Poche ragazze avrebbero agito come hai agito tu, avrebbero contemplato lo scintillio e il riverbero, l'abbagliante spettacolo offerto da Londra con una disposizione interiore così immutata e un cuore così incontaminato. Non vedo nessuna affettazione nelle tue lettere, nessun inconsistente apprezzamento, nessun frivolo disprezzo delle cose semplici e debole ammirazione per le persone e per le cose in vista. In questi nostri giorni di viaggi a buon mercato per ferrovia può venir fatto di sorridere al pensiero di una breve visita a Londra considerata capace di produrre profondo effetto sul carattere, all'infuori di quello benefico sull'intelletto. Ma la sua Londra, la Londra di Charlotte, la sua grande città apocrifa, era quella di 100 anni prima, dove figliole avide trascinavano padri riluttanti, a meno che vi andassero con amici senza giudizio, con detrimento delle loro migliori qualità e a volte la rovina del loro avvenire. Per lei era la fiera delle vanità descritta nel Pilgrim's Progress. Ma notate l'equilibrato e ammirevole buon senso con cui tratta un argomento di cui sa abbracciare tutti gli aspetti. Haworth, 4 luglio 1834. Nell'ultima tua mi chiedevi di indicarti tutti i tuoi difetti, ma dico, come puoi essere così sciocca? Non ti indicherò i tuoi difetti perché non li conosco. Che creatura sarebbe mai quella che, dopo aver ricevuto una gentile e affettuosa lettera da un'amica amatissima, in risposta le mandasse un elenco di difetti? Immagina che io lo faccia e poi considera di quali epiteti mi gratificheresti. Presuntuosa, dogmatica, ipocrita, sarebbero i più miti. Ma dico, figliola, non ho né il tempo né l'inclinazione per riflettere sui tuoi difetti mentre ti trovi così lontana da me e mentre oltretutto lettere gentili, regali e così via mettono continuamente in luce la tua bontà. Inoltre, sei sempre circondata da familiari giudiziosi che al caso possono svolgere lo spiacevole compito assai meglio di me. Non dubito che i loro consigli siano interamente a tua disposizione. Perché mai dovrei intrufolarci i miei? Se non li vuoi ascoltare, sarebbe vano, anche se uno uscisse dalla tomba per ammonirti. Se mi vuoi bene, non diciamo altre sciocchezze. Mister, sta per sposarsi, è vero? Bene, la sposa che hai eletto mi è sembrata essere una donna intelligente e amabile, fin dove mi è dato di giudicare dal poco che ho visto e da quanto mi dici. A questa lusinghiera dichiarazione devo aggiungere in appendice un elenco dei suoi difetti? Mi dici che state prendendo in considerazione di lasciare X. Me ne dispiace, è un luogo piacevole, una di quelle vecchie case signorili inglesi che, circondate da campi e da boschi, ci parlano dei tempi passati e suggerisce perlomeno a me sentimenti felici. M ti ha trovata poco cresciuta, dici? Io non sono cresciuta di un millimetro, sono bassa e miope come sempre. Mi chiedi di consigliarti la lettura di alcuni libri. Lo farò col minor numero possibile di parole. Se ti piace la poesia, sceglila di prima categoria: Milton, Shakespeare, Thomson, Goldsmith, Pope. Se vuoi, benché io non lo ammiri, Scott, Byron, Campbell, Wordsworth e Southey. Non trasalire i nomi di Shakespeare e di Byron. Ambedue sono stati grandi uomini e le loro opere sono simili a loro. Tu saprai come scegliere quanto vi è di buono evitando il cattivo. I brani più belli sono sempre più puri, quelli cattivi sono invariabilmente repellenti. Non proverai il desiderio di leggerli una seconda volta. Scarta le commedie di Shakespeare e il Don Juan, forse anche il Caino di Byron, perché, benché il secondo sia un poema magnifico, e leggi tutto il resto senza timore. Dovrebbe essere veramente depravata, la mente capace di ricavare il male dall'Enrico VIII e dal Riccardo III, dal Macbeth e dall'Amleto o dal Giulio Cesare. La soave, romantica, selvaggia poesia di Scott non può recarti danno, né lo possono quelle di Wordsworth, di Campbell, né quella di Southey, o perlomeno la maggior parte di essa. Alcune delle sue cose sono tuttavia senz'altro riprovevoli. In quanto alla storia, leggi Hume, Rowling e la storia universale, se puoi. Io non ce l'ho mai fatta. In quanto ai romanzi, limitati a leggere Scott. Tutti gli altri sono assolutamente senza valore. Per le biografie, leggi La vita dei poeti di Johnson, La vita di Johnson, di Boswell, La vita di Nelson, di Southey, La vita di Sheridan, di Moore, e anche La vita di Byron e I Remains di Wolfe. Per la storia naturale leggi Bewick e Angibbon, Goldsmith e la storia di Silborne di White. Per le letture religiose tuo fratello ti può consigliare. Da parte mia posso solamente dirti di rimanere fedele ai classici, evitando le novità. Dall'elenco delle letture consigliate all'amica possiamo renderci conto che deve aver avuto un buon insieme di libri dal quale scegliere le sue. È evidente che le coscienze delle due corrispondenti erano ansiosamente deste laddove si trattava dei punti di dottrina dell'etica religiosa. La moralità di Shakespeare doveva essere confermata dall'opinione di Charlotte per tranquillizzare la sensibile coscienza di E. In un tempo successivo, questa le chiederà se era condannabile il ballo che si praticava durante una o due ore nelle festicciole giovanili. Charlotte rispose: esiterei ad esprimere un'opinione diversa da quella di Mr. X e da quella della tua ottima sorella, ma in verità io vedo la cosa come segue. Si ammette da ogni parte che quanto è peccaminoso nel ballo non consiste nel semplice atto di dimenarsi tutta, secondo l'espressione degli scozzesi, ma nelle conseguenze che solitamente ne derivano, cioè la frivolezza e la perdita di tempo. Quando lo si pratica, come nel caso di cui parli, per l'esercizio e il divertimento di un'ora con un gruppo di amici, al quale certamente senza infrangere alcuno dei comandamenti di Dio si può consentire un po' di spensieratezza, queste conseguenze non si danno. Perciò, secondo il mio modo di vedere, il divertimento in quelle occasioni è del tutto innocente. Benché la distanza tra Haworth e B fosse solo di 17 miglia, era difficile recarsi direttamente da una di queste località all'altra senza prendere in affitto un calesse o un qualsiasi altro veicolo per fare il viaggio. Perciò una visita di Charlotte a E richiedeva veri e propri preparativi. Il calesse d'affitto di Haworth non era sempre a disposizione e Mr. Bronte non era disposto ad acconsentire a una qualsiasi combinazione che scomodasse altri. Tutti loro avevano un'abbondante dose di ombroso orgoglio che li induceva a evitare di contrarre degli obblighi oppure a temere di trattenersi in casa d'altri oltre il momento in cui la loro presenza era bene accetta. Sono indotta a pensare che Mr. Bronte considerasse la sfiducia negli altri come parte integrante di quella conoscenza della natura umana che si piccava di possedere. I suoi precetti, combinati con la mancanza di speranza nella possibilità di una vita felice propria di Charlotte, le diedero quel costante timore di affezionarsi troppo, di stancare le persone a cui voleva bene, tanto che spesso tentò di imbrigliare i suoi caldi slanci e fu avara della sua presenza anche con le amiche più amate. Se la invitavano da E per un mese, rimaneva ospite al massimo 15 giorni, benché ogni sua visita la rendesse sempre più cara a tutta la famiglia da cui era accolta con quella quieta letizia con cui si vede arrivare una sorella. Manteneva sempre l'interesse che nell'infanzia aveva dedicato alla politica. Nel marzo del 1835 scrive: «Cosa pensi della piega che la politica sta prendendo? Ti pongo questa domanda perché so che ora vi prendi un sano interesse. Un tempo non vi pensavi granché». B, come puoi immaginarti, è trionfante. Disgraziata, io sono capace di odio e se v'è al mondo qualcuno che detesti totalmente è quell'uomo. Ma l'opposizione è divisa, arroventati o tiepidi, e il duca per eccellenza, naturalmente, di Wellington e Sir Robert Peel non danno segni di incertezza pur essendo stati battuti due volte. Perciò, courage, mon ami, come erano soliti dire i cavalieri antichi prima di entrare in battaglia. Verso la metà del 1835, un grande progetto familiare fu discusso alla canonica. Il quesito era per quale lavoro o professione si doveva preparare Branwell. Aveva ormai quasi 18 anni, era tempo di decidere. Senza alcun dubbio era molto intelligente, forse in principio il più genialmente dotato in quella famiglia fuori del comune. Le sorelle quasi non si rendevano conto delle capacità intellettuali reciproche, ma ben riconoscevano le sue. Il padre, che ignorava molte falle nel comportamento del figlio, rendeva orgogliosamente omaggio alle sue doti intellettuali. Branwell faceva mostra dei suoi talenti prontamente e volentieri per intrattenere gli altri. L'ammirazione gli era gradita. E questo faceva sì che la sua presenza fosse richiesta ai banchetti funebri e a tutti i grandi raduni del villaggio ai quali veniva sempre invitato, perché gli uomini dello Yorkshire gustano vivamente le manifestazioni di un intelletto acuto, e ciò gli procurava anche la indesiderabile distinzione di essere raccomandato quale piacevole compagno dal proprietario della locanda Blackpool, se un viaggiatore di passaggio, seduto tristemente in solitudine di fronte a una bevanda alcolica, lamentava la mancanza di interlocutore. Desidera qualcuno che l'aiuti a vuotare la sua bottiglia, signore? Se è così, manderò a chiamare Patrick. Gli abitanti del villaggio lo chiamarono sempre col suo nome. E mentre il messaggero partiva in missione, il locandiere intratteneva l'ospite col racconto del meraviglioso talento di quel ragazzo, la cui precoce intelligenza e brillante abilità di conversatore facevano l'orgoglio del villaggio. La cattiva salute che negli ultimi anni aveva afflitto Mr. Bronte lo induceva a consumare i pasti da solo nello studio, come abbiamo detto, evitando così la tentazione di indulgere a cibi che non gli erano confacenti. Inoltre, gli era consigliato di riposare alquanto subito dopo la refezione. Questa necessità, combinata col doveroso disbrigo delle cure parrocchiali, lo manteneva in una parziale ignoranza del modo in cui il figlio occupava il tempo dopo le ore di lezione. Anche lui aveva trascorso la gioventù in mezzo a gente dello stesso livello sociale, a quella che oggi accoglieva Branwell. Ma era dotato di una forte volontà, di un'ardente e perseverante ambizione che lo spingeva ad emergere, di una risolutezza nel tendere allo scopo prefisso che mancavano al figlio, tanto più debole di lui. È singolare quanto fosse forte l'inclinazione di tutta la famiglia per l'arte grafica. Mr. Bronte era stato molto sollecitato nel garantire ai figli una buona istruzione in proposito. Le ragazze erano innamorate di tutto quanto vi fosse inerente. Qualsiasi descrizione o riproduzione dei grandi quadri le appassionava e nella quasi impossibilità di ottenerne di buone, erano solite prendere ed analizzare qualsiasi disegno o incisione che capitasse loro a portata. Si davano da fare per scoprire quanto pensiero vi fosse contenuto, quale idea l'artista avesse inteso trasmettere, cosa suggerisse in realtà. Con lo stesso impegno disegnavano composizioni fantastiche cui faceva difetto la capacità di esecuzione, non l'originalità dell'idea. Vi fu un momento in cui Charlotte si illuse di potersi guadagnare la vita come artista e si stancò gli occhi disegnando con una minuzia da preraffaellita più secondo la fantasia che secondo la natura. Ma tutti pensavano che riguardo a Branwell non potevano esserci dubbi, era un disegnatore nato. Ho visto un suo dipinto a olio, eseguito non so esattamente quando, ma probabilmente verso quel tempo. È un gruppo delle sorelle dal vero, molto famoso, ad altezza di tre quarti, non di molto superiore al lavoro di un pittore di insegne in quanto a tecnica, ma la somiglianza è secondo me ammirevole. Potei giudicare la fedeltà con cui le altre due erano state ritratte basandomi sull'impressionante rassomiglianza dell'immagine col modello, nel caso di Charlotte, che stava ritta dietro la tela, tenendola alta per mostrarmela. Eppure, dovevano essere passati almeno 10 anni, se non più, da quando il ritratto era stato dipinto. La composizione è divisa quasi al centro da un grande pilastro. A fianco della colonna illuminata dal sole siede Charlotte, vestita alla moda di quei giorni, con le maniche a grande sbuffo sulle spalle e un largo colletto. Dall'altro lato della colonna, profondamente in ombra, sta ritta Emily, con appoggiato alla spalla il viso gentile di Anne. L'atteggiamento di Emily mi ha lasciata un'impressione di grande forza, quello di Charlotte un'impressione di sollecitudine, quello di Anne di tenerezza. Le ultime due sorelle sembrano aver raggiunto a malapena il pieno sviluppo fisico, benché Emily fosse più alta di Charlotte. Nel ritratto hanno i capelli corti e indossano abiti più giovanili. Ricordo di aver fissato quei due visi tristi, intensi, in piena ombra, e di essermi chiesta se potevo rintracciarvi la misteriosa espressione che dicono presagisca una morte precoce. Provai una tenera, superstiziosa speranza che la colonna separasse il fato di quelle due dalla sorte della sorella maggiore, che era sopravvissuta e sedeva a parte nel ritratto. Mi piacque vedere che la zona luminosa di fianco al pilastro era la sua, che la luce cadeva su di lei. Avrei invece dovuto scorgervi i segni, e ancora più sul viso che mi stava davanti, della morte precoce e in agguato. Erano somiglianze azzeccate, anche se male eseguite. Da questo posso supporre che la famiglia non si ingannava pensando che, purché ne avesse avuta l'opportunità e, ahimè, la necessaria tempra morale, Bronwell poteva diventare un grande pittore. Il miglior modo di prepararvelo consisteva nel mandarlo come studente alla Royal Academy. Sono convinta che desiderava ardentemente seguirne i corsi, principalmente perché ciò lo avrebbe condotto in quella misteriosa Londra, quella grande Babilonia, che sembra abbia dominato l'immaginazione e ossessionato le menti dei giovani membri di quella famiglia reclusa. Per Bronwell era più di una vivida fantasia, era una realtà. A furia di studiare mappe ne conosceva perfino le vie traverse, come se vi fosse vissuto. Povero ragazzo sviato. La brama di vedere e di conoscere Londra e l'altra ancor più forte di raggiungere la fama non dovevano mai essere appagate. Era destinato a morire avendo vissuto un'esistenza breve e irrealizzata. Ma in quell'anno, 1835, tutta la sua famiglia pensava a come aiutarlo a raggiungere il culmine promesso. Lasciamo che la stessa Charlotte spieghi quali erano i loro piani. Quelle tre non furono le prime sorelle a far sacrificio della propria vita al sogno di un fratello amato. Voglia Iddio che siano state le ultime ad essere ricambiate in modo così desolante. Haworth, 6 luglio 1835. Avevo sperato nell'indicibile piacere di ospitarti quest'estate a Haworth, ma le circostanze della vita sono mutevoli e i progetti umani debbono piegarsi al corso degli eventi. Stiamo per dividerci. Separarci, sbandarci. Emily va in collegio, Bronwell andrà a Londra e io andrò a fare la governante. Questa risoluzione l'ho presa di mia iniziativa, sapendo di dovermi risolvere a questo passo una volta o l'altra e, meglio presto che tardi, come dice il proverbio scozzese, ben sapendo che papà, con la sua rendita limitata, avrà tutto il suo da fare se Bronwell sarà mandato alla Royal Academy ed Emily a Rowhead. «Dove andrò ad abitare?» chiederai. «A 4 miglia da te, in una casa che non ci è sconosciuta, non essendo altra se non la Rowhead stessa, citata più su. Sì, insegnerò nella stessa scuola dove insegnarono a me. Miss Wooler mi ha offerto l'incarico e io l'ho preferito a una o due proposte di governante privata. Sono triste, molto triste, al pensiero di lasciare la mia casa, ma il dovere, la necessità, sono severi maestri che non ammettono di essere disobbediti». Non ti dissi una volta che dovevi essere grata per la tua indipendenza? Ero convinta di quanto ti dicevo allora e te lo ripeto ora, semmai con intensità raddoppiata. Se qualcosa può compensarmi un po', è il pensiero di essere vicina a casa tua. Certamente tu e Polly verrete a trovarmi, mi sentirei in colpa se lo mettessi in dubbio. Non sei mai venuta meno all'affettuosa gentilezza nei miei riguardi. Emily ed io partiremo da casa il 27 di questo mese. Il pensiero di essere insieme ci consola un poco e veramente, visto che devo accettare un lavoro pendente, la mia sorte è caduta in un luogo piacevole. Voglio bene a Miss Wooler e la rispetto. Charlotte.